E con il drone, diciamo, iniziale di questa trasmissione riprendiamo noi di 451 Frammenti Sonori. Molto tempo è passato dall'ultimo appuntamento che ha visto protagonista anche il buon Max Macchia, che salutiamo. Ciao, dall'altra tomba. E ovviamente un saluto da Elisio Scarpa e da Max Macchia. Macchia, praticamente sono l'ospite, non ho mica capito. No, sei il protagonista, io sono l'ospite. Ma sono l'ospite di chi, scusa? L'ospite di questa città, l'ospite, questo siamo ospiti. Attenzione che non vengono trattati bene da tantissimi anni. E ovviamente 451 Frammenti Sonori riparte questa stagione 2010-2011, che speriamo sia feconda di stimoli e di nuove strade musicali che attraversano anche le nostre menti, che sono abbastanza intasate da suoni, da rumori, da immagini. E chiaramente oggi è anche una giornata particolare, perché c'è proprio questo 3 numero 10 che si ripete, 10 10 10 10, il 10 di ottobre è 2010, dunque anche abbastanza particolare. Chissà, tu che sei amante della cabala, sicuramente. Sì, della cabala, della smorfia, della smorfia napoletana. Della smorfia, sei, va sì, bene. Giochi numeri. Va bene. E ovviamente noi dovevamo già iniziare, abbiamo aspettato un po' perché siamo un po' preziosi, dunque abbiamo detto aspettiamo ancora un po', così qualcuno dirà ma quando tornano questi 451? Siamo un po' così, siamo sempre un po' disoccupati. No? Ecco, tutto, fondamentalmente, quella è la base proprio. Dunque, scamiciati e disoccupati. Anche scamiciati, scamiciati, ma c'è un po' di freddo. No, ma scamiciati è un po' un riferimento storico a un centinaio di anni fa. Ah, chiamavano i vagabondi, fino all'800, inizio 900. Sì, insomma, i ribelli, gli scamiciati. Gli scamiciati, mi è sempre piaciuta bravo, sta roba. Bravo, perché prima si metteva la camicia a posto, dentro i pantaloni. E tu invece, questi non era fighetta come adesso, insomma. Ecco. La camicia fuori dai pantaloni era, sai, brutto adesso, sì, adesso era tutto. Sì, una roba un po' da vagabondi, un po', vagabondo che non sono io, vabbè, okay, vabbè. Benissimo, non si può dire niente di serio di sé, no. Allora, ovviamente 451 riparte con una puntata speciale dedicata appunto anche al modo in cui noi vediamo questo bellissimo satellite che ci circonda e che nelle notti più scure riusciamo anche a vedere. Cosiddetta così, sembra un po' poetica la faccenda. Invece no. Invece in realtà no, ci illumina proprio, è un'illuminazione di questi ultimi mesi. Torniamo e 451 si rivolge direttamente alla Luna. Alla Luna. Alla Terra, come dire, siamo oramai sull'onda della disperazione, quindi disperazione e lutto, di conseguenza andiamo sulla Luna. Una Luna reinventata, chiaramente. Eh beh, sì. Non solo da noi, ma anche dalle varie progettualità e progetti che metteremo appunto questa sera di ritorno per questa stagione sfavillante, meravigliosa, eccetera, eccetera, che ci vedrà assoluti protagonisti. Assolutamente. Da Munnezza, chiaramente. Certo. E quindi abbiamo pensato, insomma, di fare questo viaggio lunare, anche presi un po' da The Moon. Eh beh, sì, un grande film che vi consigliamo, poi faremo una piccola parentesi al momento giusto. Sì, uno dei film sicuramente più suggestivi delle ultime stagioni, Duncan Jones, figlio di quell'altro Jones, quindi Bowie, che ci ha influenzato e ci è sembrato, insomma, possibile un aggancio con quello che viene considerato adesso Glo-Fi, una sorta appunto di non più lo-fi o no-fi, come tanto Noise ha insegnato. Tratteremo soprattutto americani e poi europei, che sono comunque abbastanza dialettici su questo discorso. E da appunto il lo-fi al no-fi si passa anche, e probabilmente si arriva, al glo-fi, una sorta di musicalità opalescente, cioè nebbiosa, così, che evoca immagini molto distanti, quasi di un retrofuturo, di un futuro passato, di un futuro che non c'è mai stato tra la fine degli anni 70 e primi anni 80, quella sorta di possibilità che si vedeva in nuce a certe musiche, a certe probabili anche evoluzioni delle musiche cosmiche, ma anche degli attraversamenti anche piuttosto paradossali dentro il mondo del pop che poteva essere e che non è mai stato. E però il paradosso è proprio il gioco di specchi, che è in questo momento, perché appunto questi giovinastri che metteremo questa sera appunto sono piuttosto freschi, sia come uscite musicali e sia appunto come rilettura, se di rilettura si può trattare questa sera, di una sorta appunto di futuro mai avvenuto, quindi in una sorta di allunaggio, una sorta di viaggio spazio-temporale tra Kodak sbiadite, videotape sgranati, radio che trasmettono assurdità tra 70 e 80, forme di New Weird Age, come la chiama qualcuno, insomma una New Age anch'essa reinventata, non assolutamente con tutto l'apparato borghese religioso degli anni 80, anzi con tanto di fricchettonismo che però appunto viene filtrato attraverso non più gli anni 70 per molti versi, ma appunto dell'immaginario anni 80. Andiamo a sentirli così. Certo. Ci facciamo un po' un'idea musicale e sonora. DuckTales per iniziare dal loro album omonimo. Thank you. Beh, DuckTales dal loro disco omonimo uscito pochi mesi fa, e abbiamo sentito come appunto questi strani personaggi che si muovono, si aggirano dentro questa strana galassia. Qualcuno la chiama anche Hypnagogic Pop per appunto il grande dosaggio di stupefazione che porta queste musiche, questi musicisti, anche rispetto appunto a un'attitudine sonora che sicuramente divede riprendere certe faccende anche piuttosto grosse, come appunto musiche cosmiche, lunari, ma appunto filtrate con un senso, se non ironico, sicuramente strano, in questo senso weird, e con anche quel sorta di non rifiniture, ma anzi quasi discrezzi dovuti appunto a questa sgranatura sonora, questa lontananza, questi echi anche a livello di immagini sonore che ci riportano appunto indietro nel tempo, non soltanto, come abbiamo un po' citato, ai cosmici, ma anche a quegli anni 80 in nuce, certe musiche che vivevano anche paradossalmente dentro certa New Age mai espressa, ovvero ad esempio la Sky Record, quello che era la continuazione delle musiche cosmiche, certo Michael Rother ad esempio, e riferimenti anche più oscuri che vanno da gruppi tipo gli UWOO, andate anche a sentirli, tanto è molto semplice la faccenda, basta digitarli su siti che insomma conoscete tutti a memoria, e sentirete insomma personaggi che veramente sembrano inesistenti, sembrano quasi inventati, come di fatto poi inventate, reinventate sono queste musiche e queste attitudini, tipo appunto i capofila come DuckTales e anche James Ferraro, ex Skaters, che viene da ben altra faccenda. Se DuckTales sono piuttosto giovani come progetto, invece James Ferraro con i suoi Skater viene dal noise, quello anche più spaccato e devastante degli anni zero appunto. E sempre appunto darà le novità di questi personaggi e progetti opalescenti che stasera cercheremo di rappresentare, almeno in parte, questa scena che è sicuramente interessante. Poi avremo modo di ascoltare anche le varie venature di questa opalescenza, attraverseremo anche altri lidi, non soltanto queste atmosfere che appunto ricordano gli anni 80 e anche gli anni 70, però rivisti quasi appunto in una immagine, una diapositiva sbiadita, un po' rotta, un po' frammentata. Ed è interessante questo futuro che poi è passato, c'è cioè questa contaminazione anche di prospettive molto differenti. E tra questi autori, rimanendo ancora diciamo nella scia simile sonoramente, almeno a livello sonoro, di DuckTales, andiamo a trovare due personaggi che hanno realizzato soltanto tre album fino a questo momento, in realtà poi oltretutto strutturati in un periodo abbastanza ristretto tra 2003 e 2006, poi uno dei due di questa coppia ha continuato a produrre con altri progetti, con altri pseudonimi, ma in realtà come progetto Delia Gonzalez e Gavin Rousseau ha creato appunto soltanto questi tre album, e abbiamo selezionato quello che ci è sembrato più interessante, un album uscito nel 2005 per un'etichetta, la DFA, che ha avuto un importante successo di critica e di ascolti negli anni zero, recuperando diciamo tutto un suono punk funk e no wave degli anni 80, e anche un'estetica che poi ritroveremo anche in Delia Gonzalez e Gavin Rousseau, che ricordano e recuperano questa atmosfera anni 80, però anche loro intrecciando dentro suoni, sonorità e atmosfere 70 legate alla musica cosmica, ma appunto in un modo molto, molto strano, molto weird, appunto, all'inglese, anche se non sono sicuro che la pronuncia sia giusta. Comunque, weird o weird, boh, non lo so. Il mio inglese è ancora più disallenato dopo quest'estate che sono rimasto qua, per cui... Perché in genere vai in Inghilterra. Vado sempre in Inghilterra ogni anno, sì. Mi chiamano per delle consulenze anche per l'interpretazione dell'inglese. Andiamoci a sentire dunque Delia Gonzalez e Gavin Russo con questo altro flusso sonoro piuttosto particolare, The Daves of Mars, DFA, l'etichetta. Sun Arrow, sicuramente una delle progettualità più interessanti dentro quello che è considerato Glo-Fi. Questa sera ne stiamo tirando fuori veramente tante, ma appena nasce una scena nuova, un movimento musicale, chiaramente ce ne sono tante di etichette che si vorrebbero affibbiare, poi le etichette sempre migliori tra virgolette vengono autoaffibbiate, come dire San Arrow, altra faccenda, anche se c'entra. Beh, c'entra. In un certo qual modo, visto che c'era una sorta di jazz lunare, un incrocio appunto tra il Davis degli anni 70, di Big Fun and Company, e un certo Sarra anche appunto con strane allunaggi musicali, e appunto probabilmente gli stessi San Arrow o formazioni che questa sera stiamo mettendo e che girano insomma in questo polvuscolo, in queste nebbie glow-fi, troveranno forse anche un'etichetta migliore, anche se poi tutto sommato il glow, cioè nel senso di opalescente, di nebbioso, di sgranato, rende molto una faccenda che non si vuole più postmoderna nel senso di citazione. Molti dei gruppi e dei progetti intervistati appunto nelle varie personalità degli autori dichiarano di essere o revivalisti o di essere influenzati da un immaginario che comunque e le accompagnati per buona parte dei loro anni di formazione, appunto nell'età infantile, quando si colgono in maniera insomma piuttosto particolare quelle immagini, quei suoni che poi provengono appunto da un'era piuttosto singolare come quella tra la fine degli anni 70 e primi 80, dove una sorta di cambio antropologico c'è stato, una anticipazione per molti versi della fine del secolo, del appunto ventesimo secolo, dove in un certo qual modo la nostalgia era una sorta di malattia, dove si è sempre cercato di inseguire il nuovo, in questo senso le avanguardie hanno fatto da leoni, oltre che da infuocati, ribelli e nemici delle convenzioni e dello status quo. In questo caso invece la nostalgia diventa quasi una sorta di droga, di stupefazione, una sorta di narcotizzante, eccitante, e appunto non più trattandolo in maniera citazionista come il postmoderno, ma trattandolo forse più avvicinandosi a quella che era appunto quella generazione di autori, e non soltanto, anche proprio un discorso sociale, politico, che tendeva al nuovo, a rompere e a creare appunto nuovo. Dagli anni 80 in poi la citazione diventa una sorta di cambio e di struttura quasi immutabile, che arriva quasi ai nostri giorni e per tanti versi li attraversa ancora. Noi tifiamo, se si può dire così, per la fine di questo trentennio insomma di postmodernità, che già si è incrinato forse una decina di anni fa con le prime avvisaglie di crisi con le Twin Tower, che però potrebbe anche appunto essere arrivato veramente al capolinea anche con questa crisi economica, con appunto una reazione che prima o poi ci sarà e magari c'è già in nuce. Lo speriamo, anzi lo vediamo più che lo speriamo. Sì, infatti la speranza lasciamo alla chiesa, alle cose vecchie. E noi andiamo alla fine ormai della prima parte della puntata, velocissimamente annunciamo un brano. No, pardon, mi mancava. Pardon, ti mancava. Da un po' di mesi, dalle ultime trasmissioni. No, facciamo una citazione che è stato, diciamo, l'elemento che ha scatenato l'idea della trasmissione di stasera, 451 e la Luna, appunto il film Moon di Duncan Jones, uscito alla fine del 2009, produzione tutto britannica, un film che vi consigliamo assolutamente di andare a vedere, o ovviamente, dato che non ci sarà più nelle sale, di trovarlo in qualche altra maniera, sappiamo in che rete, modo, certo. In rete, e un film che appunto ha rappresentato anche con delle tecniche di ripresa molto vicino anche all'uso di modellini e di colori ovattati simili al bianco e nero, riportandoci dunque dentro il discorso dell'opalescenza attraverso il linguaggio filmico, anche attraverso Moon. E andiamo a prendere un brano della colonna sonora di Moon, che è stata realizzata da Clint Mansell, che oltretutto è anche il musicista e il compositore che ha realizzato la colonna sonora di un altro film assolutamente da rivedere, che è appunto Requiem for a Dream, uscito nel 2002, un film allucinante ed inquietante nello stesso tempo. Andiamoci a sentire dunque, poi rientreremo dopo GR di Radio Popolare Network, il pezzo tratto dalla colonna sonora di Moon.